Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. Come ogni domenica, vi salutano affettuosamente Gesi e Antonio. Oh Antonio, siamo qui anche stasera. Anche questa sera. Ecco, esatto. E avremo un ospite virtuale stasera. Benissimo. Intanto diamo un cordiale benvenuto alle amiche e agli amici di Blu Radio Veneto, che invitiamo alla nostra consueta passeggiata virtuale tra sentimenti, emozioni e ricordi sulle frequenze di 88 e 70 e 94 e 60 in FM. Per chi lo desidera, segnaliamo anche la possibilità di seguire il programma in streaming o di effettuare il download dal sito bluradioveneto.it. Naturalmente un saluto cordiale al nostro regista. Esattamente. Ecco. Allora, io direi presentiamo prima l'ospite, dopo così quando è al telefono. Va benissimo. È il signor Donadio, Antonio Donadio, sì, sì, poeta e giornalista, che noi sentiremo oggi da... che è andato a farsi un po' di ferie nella costa amalfitana. Comunque ha detto che la trasmissione... Beato la fa... lui, lo posso sì, dire. Appunto, sì, appunto, sì, sì. Poi lo sentiremo. Vabbè, andiamo d'accordo con la prima canzone, che è cantata da Bobby Solo, Romantico Blues. Mai non dormo più, quando è notte vado camminando. Da quando c'è lei? Io mi chiedo se son vivo oppure sto sognando. Sognando, sognando di lei. Nel silenzio della notte una voce mi dirà: l'amore è un romantico blues, un blues che fa morire il mio cuore. Di giorno lo voglio scordar, di notte penso a lei. Nemmeno tu dov'è? Nel silenzio della notte una voce mi dirà: l'amore è un romantico blues, un blues che fa morire il mio cuore. Penso a lei, io l'amo anche quando non c'è, quel blues che fa morire il mio cuore, io l'amo ogni giorno di più, perché oramai non vivo più. Eccoci di nuovo in studio e presentiamo l'ospite virtuale, che è il signor Antonio Donadio. Buonasera, signor buonasera. Donadio. Buonasera, buonasera. Ciao Antonio, ciao, come stai? Bene? Bene, grazie. Tutto bene? Tutto bene. Ascolta Antonio, adesso dovresti presentarti un pochino, perché non abbiamo qui il curriculum tuo. Magari ti presenti un pochino e dici qualcosa, insomma, che così gli ascoltatori ti possono così conoscere un pochino. Sono un signore di una certa età che nasce a Cava dei Tirreni, una splendida città in provincia di Salerno, e che per un certo periodo della vita fa il professore di liceo, ma coltiva da sempre l'amore per la poesia e a un certo punto è diventato da sogno nel cassetto scrivere versi una realtà che mi accompagna ormai da anni e vivo, diciamo, sopravvivo con come possibile con i mezzi economici e invece si vive realmente con i versi, con la poesia. Da anni non abito più a casa e vivo a Bergamo, dove sono sposato con una signora di Bergamo e un figlio ventenne. A Bergamo abiti proprio in città, a Bergamo? Sì, io abito in città, si chiede sempre Bergamo De Alta Hora o De Jota? Esatto, io aggiungo molte volte Bergamo Bassa perché Bergamo Alta ci sono quelli che hanno più soldi, ecco, quindi, non essendo tra quelli di maggiorenti. Un posizionamento sociale, diciamo, ecco. Esatto, esatto. Adesso però sei in vacanza sulla costa amalfitana. Ecco, sì, però oggi, questa sera, sto parlando dalla mia città, da Cala di Tirreni, che dista pochissimo dalla costiera amalfitana, perché sono giunto proprio pochi giorni fa, sempre per impegnato per la presentazione del mio ultimo libro, che ho pubblicato appunto da poco, e quindi mi tornerò purtroppo solo alcuni giorni e poi ritornerò a Bergamo. E il tuo ultimo libro, che come l'hai intitolato? È un libro di poesia? Il mio ultimo libro, mi fa piacere che tu me lo chieda, perché tengo tantissimo, non al mio libro, ma all'argomento. È un libro che una volta si diceva introduzione allo studio della poetica di Mario Luzzi. Ah. Mario Luzzi il 20 ottobre avrebbe compiuto 100 anni, ci ha lasciato 10 anni fa, esattamente il 28 febbraio di 10 anni fa, e questo libro intitolato La vita al quadrato è un omaggio al grande Mario Luzzi e un aiuto per chi volesse avvicinarsi alla poetica di un maestro del Novecento, uno dei più grandi. Dicevo che confermavo che è stato uno dei più grandi, insomma, Mario Luzzi. Sì, Mario Luzzi, io tengo tantissimo, perché io l'ho conosciuto, l'ho frequentato una quindicina d'anni, e questo libro è mio, infatti, nella prima parte, come ho detto, c'è questo mini saggio sulla sua poetica. La seconda parte è costituita da fotografie, interviste, biglietti augurali tra me e il grande Mario Luzzi, ma solo per sottolineare la grandezza nella seconda parte non solo del poeta, ma dell'uomo, della sua umanità, grandissimo uomo. Tu poi, fra l'altro, sei anche giornalista, vero? Sì, io sono giornalista e mi occupo ovviamente di argomenti di natura letteraria, collaboro ormai da anni con alcune riviste di settore, ma anche con un quotidiano, con l'Eco di Bergamo, e il giorno di Pasqua c'è stato il mio pezzo su fede e poesia, il rapporto tra poeti grandi del Novecento e la fede, dove ho brevemente, come tutti gli articoli giornalistici, non è che si possa avere tantissimo spazio, però una pagina me l'hanno concessa. Certo. Tema impegnativo, naturalmente. Ecco, sì, ho parlato non solo di Luzzi, ma chiaramente di Tivoldo, di Rebola, e anche di quelli che non ci si aspetterebbe tanto, che hanno avuto una vita particolarmente complicata e complessa, come Alda Merini. Alda Merini è un discorso a parte, e poi anche di un poeta, per esempio, grandissimo, e quello è un altro, Giorgio Capruni, che apparentemente quasi lottava, ecco, nei suoi bellissimi Franco Cacciatore, per esempio, lottava quasi con la figura di Dio, ma proprio lottando e quasi a volte sfidandolo, lo ricercava e lo pregava. Ecco, questo è stato il pezzo di Pasqua sul Corriere. Bene, quindi deve essere riuscito un bel pezzo. Beh, sì, mi hanno poi telefonato, come si fa sempre, con lei. Ma si vuoi parlare un pochino così di quello che hai scritto sulla figura di Luzzi? Ecco, Mario Luzzi, ecco, ti posso spiegare agli ascoltatori il titolo, che sembra un titolo strano, La vita al quadrato. È legato questa frase, è legata questa osservazione, è legata alla prima volta che ho conosciuto Luzzi. Io ho conosciuto Luzzi, l'avevo studiato ovviamente, non solo da professore insegnando, ma anche personalmente, dicevo, e ho avuto l'occasione, non avendo mai incontrato, di incontrarlo nel 1989 presso l'Università San Gorsola di Casa di Napoli. Lui era lì per una lezione sul Paese. Confesso che mi interessava poco, ecco, l'argomento, mi interessava conoscere lui. E quando lui ha finito la sua relazione, mi sono avvicinato con il mio registratore Sony, la scaglia di quelli ancora con la cassettina, col nastrino, avrei fatto sentire i miei alunni a scuola, e l'ho intervistato. E alla mia domanda, certo non facile, professore, perché lui non amava essere chiamato maestro, era stato, come si sa, docente di letteratura francese, quindi era un professore universitario, disse: professore, che cos'è la poesia? Ebbene, lui mi rispose: la poesia è la vita al quadrato. Mi dica lei cos'è la vita e saprà cos'è la poesia. Quindi, impegnativo poesia, pure questo come argomento, sì. Come scusi? Impegnativo intendo, cioè nel senso di un qualcosa che sfida, esatto, praticamente l'immaginazione, giusto? Ecco, esatto, ma io poi le dirò che quando Luzzi ha compiuto 80 anni, eravamo poi nel rapporto così, sia epistolare che anche, diciamo, i soliti incontri durante i convegni che avevo la fortuna anche di partecipare, anche come poeta li incontravo, io dopo un... quando Luzzi ha fatto 80 anni, dicevo, quasi a risposta gli mandai dei miei versi bellissimi che vabbè, si sono pubblicati su quest'ultimo libro. Se vuoi, Giuseppina, posso leggere. Ecco, allora magari ti ascoltiamo un'altra canzone e poi leggiamo qualche verso. Recupero il libro. Grazie. Allora, prego. Grazie. La seconda canzone in programma si intitola Il carrozzone e si sa da chi sarà cantata, da Redatto Zero. Il carrozzone va avanti da sé, con le regine, i suoi fanti, i suoi re. Ridi buffone per scaramanzia, così la morte va via. Musica, gente, cantate che poi uno alla volta si scende anche noi. Sotto a chi tocca in doppio petto blu, una mattina sei sceso anche tu. Bella la vita che se ne va, un fiore, un cielo, la tua ricca povertà, il pane caldo, la tua poesia. Truccate di malinconia, per piangere, no, non ce n'è. Tutto continua anche senza di te. Bella la vita che se ne va. Eccoci di nuovo in studio con il nostro ospite, al quale lasciamo la parola. Dicevo, ecco, riprendiamo, ma mi sembra fatto proprio apposta, anche se non sapevo della scaletta, perché Renato Zero parla della vita. Noi della vita vera. Con l'affermazione di Luzzi sulla vita, stavo dicendo che io per gli 80 anni a Luzzi, oltre agli auguri personali, gli mandai questa mia poesia, quasi una risposta sulla vita, ed è, sono questi versi. Il titolo è Il tempo di dove sei, sottotitolo Luzzi per i suoi 80 anni. Il tempo è dove sei, stretto da ritmi impassibili del dare e dell'avere, in solidale corrispondenza, dono dell'irrisolto poco che ostinatamente si detta vita. Ecco, bella. Sì. Una sintesi dell'esistenza, effettivamente. Praticamente ho risposto a Luzzi dicendo ok, non siamo capaci, tampoco io, né grandi, da tanti grandi poeti, grandissimi, a dare una risposta alla vita. E io ho detto, se possiamo solo considerare il tempo che viviamo, che è un irrisolto poco, perché praticamente lo viviamo, ma realmente noi non sappiamo cos'è questo irrisolto poco. Chiaramente tutto questo discorso senza toccare la sfera spirituale. Certo. Ecco, si crede ovviamente, per noi fedeli e credenti, la risposta c'è. Certo. Ecco, poi Cesarina, volevo dire una cosa, se mi permetti. Prego. Il rapporto, ecco, ci tenevo a dire una cosa, il rapporto molte volte si chiede che differenza passa, se vuoi si può accennare anche a questo, che differenza passa tra il cantautore e il poeta, la canzone e la poesia, visto che prima abbiamo sentito un grande cantautore, ecco, sì. Se vuoi... Sì, dimmi, sì, parlane. No, perché un paio di domeniche fa, non mi ricordo, su Rai 1 hanno parlato di poesia, di mattina verso le 9:30, e parlare di poesia, hanno detto oggi parliamo di poesia, ho detto va bene, quindi mi fermo maggiormente ad ascoltare e vedere, e hanno invitato Mogol. Ah sì, che è un grande paroliere, sì. Mogol. Ecco, come giustamente ha detto Pagliere, Mogol come poeta, e purtroppo devo dire, senza fare polemica, sono un giornalista, so benissimo, ma quello che è preparare un programma, però il presentatore dice oggi non ci sono più i poeti di una volta, i grandi poeti, non c'è Montale, non c'è Ungaretti. Ecco, io voglio dire che un anno fa c'era la Maledizia Spaziale, grandissima poetessa, appunto c'era Luzzi, c'erano i grandi. Bisogna dire invece che questi poeti grandi, come oggi, sì, sono quelli della mia generazione, non parlo assolutamente di me, che potrebbero ben rappresentare la poesia in Italia, non solo in Italia, ma non vengono invitati, e allora questa è la visibilità che manca, chiaramente. Esatto, esatto. Sì. Pensi che lì nel Veneto, per esempio, c'è un grandissimo poeta, un grandissimo amico, che è Paolo Ruffini di Treviso, e Paolo, voglio dire che ha rappresentato, pensi, ha rappresentato l'Italia anche un festival di poesia in America più di una volta, negli Stati Uniti, però io lo vedo, non lo vedo in televisione. Questo è il grande male, diciamo, di questa società spettacolo, che non ha tempo per sedimentare, diciamo, emozioni e sentimenti. Ecco, quindi chiesero a Mogol che differenza ci fosse tra poesia e Cecchi, no, qual era il rapporto. E Mogol disse, ci deve essere, Mogol disse, la musica deve essere in sintonia con le parole. Ecco, io mi permetto, non solo io, di dire che non è, questo è esatto, ma per una canzone. In poesia le parole e la musicalità non devono essere in sintonia, devono essere la stessa cosa. Parole e musica devono essere la stessa cosa. Coincidere. E questo, ecco, ed è questo. Ma secondo me Mogol scrive parole per poi musicarle, i poeti scrivono poesie per recitarle. Esatto, è la poesia in sé ha la musicalità, certo. Ecco, quello è esatto. Se loro lessero per esempio il grandissimo infinito di Leopardi, bella. È chiaro, quello è stato, io ho degli studi fatti da alcuni studiosi anche di musica, è stato studiato come uno spartito, quindi questo vi fa capire, agli ascoltatori, quanto la parola sia musicalità, perché ecco, la parola è questa. Oggi bisogna dire questo, che la parola in poesia, la musicalità, l'armonia, la metrica, il suono, detta il contenuto. Ecco, questo è. Cioè, se si fa poesia dove mancano il rispetto metrico, che non significa schema rigido, ma significa appunto ricerca di una propria metrica, ed è oggi quello è difficile scrivere realmente in poesia, allora si è fatto un verso. Pensi, e chiudo questo argomento, che un certo Giacomo Leopardi, una delle cose che disse, tante cose disse, fine della sua brevissima vita, disse: mi sarebbe piaciuto essere un poeta. Addirittura una provocazione detto da Leopardi. Sì, appunto. Ma parlaci un pochino della tua opera poetica. Ma ti dirò subito, io i libri miei più importanti, io sono uscito, è un libro del 93, già avevo altre cose, ma questo è il più importante, Per le terre di Grecia. È un viaggio sul mito greco, che un viaggio fatto realmente in Grecia, dal mio blog note, dove scrivevo rapito in quei posti che avevo studiato, avendo fatto il liceo classico, avendo studiato lettere e filosofia, insegnato, quindi era un mondo che ritrovavo dopo averlo vissuto nella mente e nel cuore. E quindi un ripasso, diciamo, del mondo greco attraverso gli occhi della contemporaneità, del poeta, ed è un libro che mi ha dato anche delle soddisfazioni, perché con questo sono stato invitato al premio Viareggio. Ecco, non sono entrato nella cinquina, ma l'essere stato invitato a Viareggio di per sé è già un onore grande, giustamente. Ecco. Hai qualche Dimmi. Hai qualche verso di questo libro? Hai qualche poesia? Sì, sotto mano. Posso leggere gli ascoltatori su un pezzettino dell'inizio, che è così, perché un libro, ecco una cosa, vuol dire, i miei libri non sono raccolte, sono storie in versi, ecco, sono libri, ti racconta una storia, e questa racconta è un viaggio, e il libro inizia così: mi hanno detto che andrò per le terre di Grecia. Siederò coperto di mirti e ombre di lauro tra le sacre aree. Udrò, mi hanno detto, il respiro che smuove dal mare le fronde, udì che vestali dal canto sottile e sinuoso per vesti riottose. Correrò le terre di Grecia nudo, senza sandali d'oro, pellegrino muto di versi, ascolterò l'eterno canto sconfitto da barbari accenti vittoriosi. Genera il respiro sotto passi di polvere secca. Veglierò la luna che sorge ad oriente come regalo ultimo d'oro. Nessuno mi vedrà percorrere le terre di Grecia, già mille più mille volte percorse. Bello, bello. Ecco, questo è uno dei suoi libri, no? Sì, e poi libro a cui sono più affezionato è L'alba nella stanza, perché viene, come dicevo, a una nota di presentazione di Mario Luzi. Ah, ho capito. Ecco, quindi Mario Luzi mi onorò di questa sua presentazione. Con questo libro ho vinto alcuni premi, ma soprattutto vinsi il Circe Sabaudia, che era un po' il premio di spalla del Viareggio, ecco, nel 1996, e mi ha dato molte soddisfazioni, perché è un libro che sia di critica che di vendita, voglio dire. Infatti io ho una copia. Ah, solo, è rimasto solo. E come si intitola questo? Ecco, questo libro si intitola L'alba nella stanza, che prende il nome da un verso, a cui vi dirò il libro, di Cesare Pavese. Il verso è: solo l'alba entrerà nella stanza vuota. E anche questo, se mi concedi solo un attimo in più, è un libro che parla, è una cosa stranissima, parla di una famiglia che viene dimenticato in un vagone ferroviario ai margini di una grande stazione. E in questo vagone ferroviario ci sono tutte le fasi della vita, la nascita, il matrimonio, la morte, e anche i ferrovieri, i viaggiatori, presi dai loro problemi di lavoro, i ferrovieri, i viaggiatori di vita, non fanno caso, ecco, a questa vita. Invisibili, quindi. Esatto, gli invisibili, esatto. E questo sarebbe un tema poi oggi, soprattutto. Enorme, sono gli invisibili. Esatto. Sì. Però nessuno va a chiedere aiuto, tranne un giovane, l'ultimo figlio, il più giovane, che dice ai genitori: voglio partire. I genitori dicono: ma sconsigliano di partire, perché realmente sanno che resteranno invisibili. Invece il ragazzo parte, il libro si conclude non sapendo se il figlio torna, e dove però c'è la presenza del sole che entra, dell'alba che entra nella stanza. Bella sta immagine. Come? Bella sta immagine, l'alba che entra nella stanza. Ecco, e leggo solo due righe di quello che aveva detto Luzi, e aveva detto questo: l'alba nella stanza non è un racconto versificato, ma una favola risorgente a ogni ripresa, una favola che pure è una storia umana dolorosa. Diffondono componenti sostanziali della sua personalità lirica, a mio avviso, laddove Donadio mette a profitto le sue note e belle facoltà in questo struggente documento, ecco, voglio dire, più o meno ho quasi parafrasato in quel pezzo. Sì, sì. Un imprimatur di tutto rispetto. Allora adesso ci fermiamo un momento per il terzo brano e poi proseguiamo la nostra corsa. Allora, terzo brano, il volo canterà Grande Amore. Chiudo gli occhi e penso a lei, il profumo dolce della pelle sua, è una voce dentro che mi sta portando dove nasce il sole. Sole sono le parole, ma se vanno scritte tutto può cambiare, senza più timore te lo voglio urlare, questo grande amore, amore. Respiro nei giorni miei, d'amore. sono primavere, giorni freddi e stupidi da ricordare, maledette notti perse a non dormire, altre a far l'amore, amore, sei il mio amore, per sempre, per me. Sì, perché quando penso, penso solo a te. Perché quando amo, amo solo te. Dimmi perché quando vivo, vivo solo in te. Grande amore. Dimmi che mai, che non mi lascerai mai. Dimmi chi sei. Eccoci di nuovo in studio con il nostro ospite, Antonio. Dimmi, ok, sono sempre qua. Allora, ci parli un po', che so che tu vieni in Veneto spesso, e come hai conosciuto il Clan Verturin, e come hai conosciuto Lia e tutti i suoi... Sodali, ecco. Ecco, sodali. Io vengo spesso a Clan Verturin, per la verità la cosa è nata grazie sempre ad uno dei prodotti più belli, oltre alla simpatia e la familiarità del gente venete, che è il prosecco. Insomma, mi pare che sia uno dei nostri prodotti di punta, ecco. Ecco, mi regalò un carissimo, carissimo proprio questo, fraterno amico che è Marco Roncalli, per nipote del Papa, ma noto giornalista e che ha scritto la biografia del Papa Roncalli e anche di Papa Luciani ultimamente, l'anno scorso, anche per la Mondadori, per la San Paolo, mi regalò una bottiglia di Prosecco con una bellissima etichetta firmata in, chiaramente era un lito, Giulio Turcato, e dietro un biglietto ugale con la firma, chiaramente sembra anche questo stampato, di Mario Luzzi e Carlo Bo. Quindi per me fu una illuminazione, diciamo. Dimmi, la prima volta quando è che sei venuto in Veneto? Come hai conosciuto la famiglia De Martin? Ecco, e Marco mi disse, guarda che lo producono questi signori vicino Conegliano. Quindi ho conosciuto Lia e Flaminio, ho incominciato a frequentare la loro associazione, sono entrato nella giuria del premio di poesia religioso, che ha nomi prestigiosi come Toni Toniato, sì. Non fammi dire sì. Sì, Toni Toniato, Massimo Donà, sì. Paolo Stilli, lo stesso Marco Roncalli, e quindi ho cominciato a frequentare l'associazione e ho scoperto, ecco, un altro Veneto. Un Veneto, altri veneti belli dal dialetto così armonioso come il nostro napoletano, perché io vengo da un'area campana, così solidari, così veramente dal sorriso franco, schietto. Ecco, al di là di tutte quelle stupidate, ci vogliono mettere l'un contro l'altro, ecco, voglio dire, facendo semmai della lingua, del dialetto, una paratia, un ostacolo, invece le lingue, tutti i dialetti, amo i dialetti. Ecco, questo è stato il primo e poi l'approccio, quindi ci vediamo sempre, organizziamo cose simpatiche, adesso allo stesso, in programma ci sono altre cose, perché Lia, che mi perdonerà, ma è una signora ormai ottantenne, ma è di una vitalità sì, molto, straordinaria. Molto, sì, straordinaria, sì. Sì, veramente straordinaria. Beh, non sembra neanche si sembra ancora una giovincella dallo sì, spirito che ha, lo spirito è uno spirito veramente giovane che ha, e anche piena di entusiasmo. Poi sapere lì, andare a casa loro e oltre il posto, e nel momento in cui si sale la collinetta di San Pietro, vedere queste colline con i vigneti, è uno spettacolo, ecco, per chi sa guardare è uno spettacolo, per chi non sa guardare non sa che ci perde. Sì, io ti ho incontrato diverse volte lì dalla Lia per quello. Sì. E cosa, tu che sei nato in Campania, vivi in Lombardia, che ne dici del Veneto? Ma guarda, io ti dicevo, fin quando non ci si entra dentro, e io dico entrare dentro anche fisicamente, io penso che non si conoscano perfettamente i luoghi. Chiaramente io del Veneto ho conosciuto chiaramente Venezia, come tutti, ho conosciuto per esempio Padova, oltre che mi chiamo Antonio, quindi si capirà. Sì. Ecco, il mio amore per Padova. Per esempio, io a Padova ho un ricordo bellissimo. Nel 1994 vi era stata una pubblicazione sulla traduzione come invenzione letteraria, e ero stato invitato anch'io. Ho tradotto, ho presentato qualcosa di particolare sulle traduzioni in napoletano del 600 di Lilia dell'Odissea. E in quell'occasione è stata organizzata dalla Bompiani e da un'associazione di Padova Biblios, mi sembra. Avevo conosciuto Alessandro Parronchi, avevo conosciuto Cesare Rufato, avevo conosciuto Sanesi, poeta Sanesi. E quindi voglio dire, avere il contatto, ecco, con le persone, ma anche poi del luogo. Ecco, quando io sono arrivato, dicevo, a Conegliano, quando sono entrato nel vivo attraverso le persone, dei luoghi, la loro lingua mi è diventata molto, molto familiare. Diciamo, esatto. E quindi anche da dove pensa, pensino i radioascoltatori, che molte volte la Lia mi parla in Veneto e mi dice: oh, scusa, ho capito l'80%, mentre 3-4 anni fa, quando l'ho conosciuto, capivo al 10%. Sì. C'è stato un notevole progresso, quindi. Anche perché lì hanno un dialetto un po' diverso, per esempio dal trevigiano vero e proprio, hanno un po'. Certo, un po' quello diverso. È che hanno mantenuto praticamente la zona della Sinistra Piave, eccetera. Eh sì, appunto. E scusa, la tua prima opera letteraria qual è stata? Ma la prima opera mia, proprio piccola, prima ancora ragazzo, è in un'antologia, avevo 20 anni e fui presente in un'antologia di Caso Vuole a Milano, e per la verità mi avevano fatto una critica molto positiva, ed io che facevo ancora 20 anni, stavo quasi per laurearmi in filosofia, dissi: beh, io non voglio partecipare perché mi parlano quasi di maturità, ma figurati, io devo leggere e studiare, leggere ancora tanti autori. E quindi per molto tempo non partecipai a premi, fino verso quasi 35-36. Quando poi avevo raccolto delle cose, dissi: vediamo, e le ho mandate ai grandi, avendo delle risposte fortunatamente con valore positivo, ho iniziato un po' a vivere direttamente, ecco, della poesia, che per me è veramente una fonte di vita, non è una frase fatta. Adesso che progetti hai? Hai intenzione di scrivere qualche altra cosa, qualche altra poesia, qualche altro libro? Ma guarda, ho in progetto alcuni lavori. Uno a livello di critica, perché mi occupo ovviamente anche di critica letteraria, come con questo libro di Luzzi. Avrei in progetto, se possibile, perché sai, con le case editrici e delle difficoltà economiche, sì. Adesso più che mai, volevo, per la verità, stavo studiando un progetto di riscoperta di un altro poeta, Rocco Scopellaro, poeta materano, anche per il fatto che Matera sarà la capitale d'Italia del 2019, capitale della cultura, sì, esatto. Esatto, della cultura. E quindi di Rocco Scodellaro. Poi sono impegnato nella presentazione del libro, nel mese di maggio lo presenteremo ad Urbino. Forse mi ha detto, si sta organizzando, ecco questo, si sta organizzando forse la presentazione a Treviso. Ah, del libro. Bene, bene. Lì mi ha detto che stava organizzando, ma... Ma se lì ti dice così, vuol dire che è una così. Macchina da guerra. Sì, sì. Con la presenza appunto di Toni Toniato, Massimo Donato. Sì, sì, sì, sì, lei si basa molto su queste due persone che sono molto, molto incisive nella... E beh, poi tengo in preparazione l'ultimo libro mio di versi, proprio miei. Bene, allora ci fermiamo un attimo, ci ascoltiamo una canzone e poi ci salutiamo per l'ultima tranche. Allora, adesso ci ascoltiamo, cantata da Don Bachi, Non piangere stasera. Non piangere. Ma sera che noi siamo insieme, ma pure se lontano, io t'amerò di più. Non piangere stasera, io te darò se tu non piangi. Antonio, siamo qui per gli ultimi momenti. Ecco, allora sì, mi stavi parlando un attimo della tua prima opera. Sì, ecco, mi ero allontanato. Appunto la mia prima opera fu poi un libro scritto insieme ad un amico, uno scultore, il maestro Vincenzo Avagliano di Cava, alcuni versi miei e delle sue rappresentazioni pittoriche, e che ebbe anche un buon riscontro tengo a dire, però, guarda, prima di chiudere, ti fare i complimenti per quello che fate, per quello che fai. Grazie. Per l'importanza, no, ma soprattutto per l'importanza che date al dialetto. Ecco. E quindi alla riscoperta, ovviamente, della lingua, perché il dialetto oggi, perdonatemi, sembrerebbe un mezzo per dividere. Invece io credo che si debba riscoprire il dialetto proprio come collante. E perché dico questo? Che sembrerebbe quasi un discorso non conciliabile. Perché facendo io degli studi del grande Tullio De Mauro, voglio riproporre questo. Il dialetto e la lingua nazionale in effetti sono paragonabili alla campagna e alla città. Ecco, la città chiaramente è la lingua nazionale, il dialetto è la campagna, la città quindi è il centro, perdonatemi, la lingua nazionale è il centro e la campagna è il dialetto. Ecco, io dico questo, in città ci sono tutte le comunità, però non si deve distruggere il verde e la campagna, perché sono preziosi anche per la vita cittadina. Ecco, questo che non si riesce a capire, il napoletano, il veneto, il sardo, il bergamasco, sono espressioni molto forti, dove il parlare concreto è realistico, è preciso, è pregnante, direi epidermico, e questo può essere porte di cemento per la lingua nazionale. E anzi combattere forse un'anglofilia che forse è troppo sì. Decisamente, no. Anche a sproposito. Non so se condivida. Certo. Soprattutto a sproposito di questa esterofilia, eccetera. In realtà io ho l'impressione che sia la città, come lei diceva giustamente, senza la campagna non ha futuro, non può sopravvivere, diciamo. Quindi è questo il punto. Bene, allora Antonio, noi ti ringraziamo sentitamente per la bella trasmissione. Ecco, e spero di rivederti presto, magari su a San Pietro di Feletto. Va bene, benissimo. O che mai a Treviso in occasione. Benissimo. Che ci sarà la presentazione del libro. Benissimo, benissimo. Sarà un piacere. Così conoscerai anche il nostro Antonio, che è anche lui conduttore con me della trasmissione. Sarà un piacere. Sì, un saluto. Ci siamo conosciuti oggi. Tanti saluti. Grazie di nuovo. Grazie Antonio, professore. E grazie mille. Grazie. Alla prossima volta. Grazie Antonio. Grazie. Ciao. E allora noi continuiamo su questa ultima tranche con un accenno praticamente poco più di... Un libro di Bruno Lorenzon che anche lui è mancato 10 anni fa come Mario Luzzi. E a piede scalzi è Il sapere dei nonni, è la seconda opera di questa trilogia. Volevo proporvi così un frammento di narrazione dove si parla di cibo, e ormai siamo a poche settimane dalla Expo di Milano dove si parla di nutrire il pianeta, energia per la vita, e, diciamo diversificando in così in fase contadina, se vogliamo, tornar verso Puenta. Nelle nostre campagne si coltivavano quasi tutti i cereali: frumento, mais, riso, orzo, avena, segale, sorgo, miglio, panico. I primi tre sono di gran lunga i più importanti, in quanto utilizzati prevalentemente per l'alimentazione umana. In passato la polenta era assai più comune del pane, tal quali o sotto forma di derivati, di solito farine, stando accorti perché a volte nausea farina da far ostie, in riferimento alle persone poco raccomandabili. Non di meno anche le altre colture sono diffuse e altrettanto familiari, e l'orzo addirittura è noto fin dalla preistoria. I grani macinati servivano per cuocere una sorta di polenta. Il suo malto tostato e polverizzato è un componente della preparazione della birra, e una volta arrostito in tel brusin o baia da caffè diventa un discreto succedaneo del caffè. Non molto apprezzato, evidentemente, se dopo averlo bevuto i nostri vecchi, per far buona bocca, se la sciacquavano cioè il resentava, con una tazza di graspa fatta in casa. L'avena era la biada per i cavalli, animali dai gusti difficili. Gli altri quadrupedi si accontentavano di fieno e scarti dell'orto, e di conseguenza offrire cibi raffinati a chi non era in grado di apprezzarli era come darghe avena ai porsei. Il miglio, notoriamente, si dà agli uccellini in gabbia. Le piccole dimensioni delle sue cariossidi, i grani della spiga, si prestano come termine di paragone per chi ha fisico minuto e bassa statura, del quale si diceva che è il je grande come un grande meglio. Il frumento è il formento, mentre il formenton è l'altra voce con cui si identifica il soturco, cioè il grano turco o il mais, pianta dalle origini apparentemente ambigue. Infatti non ha niente a che vedere con la Turchia, perché proviene dal Messico. Si propagò in Europa all'inizio del XVI secolo e ora è coltivato in tutta l'Alta Italia. Il riso è un alimento straordinario che nutre oltre la metà della popolazione mondiale, ed anche da noi è molto usato, per quanto le aree di produzione si vadano riducendo. Al pari del vino, al quale proverbialmente si sposa il riso nascente l'acqua e il more in tel vin, anche il riso fa buon sangue, che lo si voglia intendere come cibo o come buon umore. Effettivamente è sempre un bel mangiare, comunque lo si cucini: la minestra con i piselli o il risotto con i germogli di luppolo, i classici risi e bisi e risi e bruscandoi, sono una vera squisitezza, ma un tempo si apprezzavano anche i risi col latte. Un altro punto di merito se lo aggiudicava il riso, in virtù della sua tendenza a crescere in tea pignata quanto più a lungo veniva lasciato cuocere, fatto rilevato in una notissima commedia di Goldoni, che suggerisce, per bocca di Sir Todero Brontoion, preoccupato per le tante bocche da sfamare, di usare un pugnetto di riso e farlo bogir tanto che sarebbe bastato per tutti. Nei paesi orientali il riso è alimento quotidiano, e in Giappone dalla fermentazione dei chicchi ricavano anche il sake. Da noi è considerato un segno di buon augurio gettarlo addosso agli sposi, ma in realtà si tratta di un aggiornamento della più antica usanza di bersagliare con dolcetti e confetti i festeggiati. Comunque sia, come conseguenza del matrimonio e della nascita dei figli, succede prima o poi che questi, crescendo, igemagna i risi in testa, a sopare e a somare, superandoli in statura e magari anche in giudizio. E adesso andiamo con l'ultima canzone, naturalmente. Ecco, l'ultima canzone in programma è Melodia, cantata da Jimmy Fontana. Suona, suona, melodia. Sembri tu, quanto eri bella, non so più. Mare grande, mare blu, sembri piangere anche tu, ma quando sento questa suoni melodia, eri bella, eri mia, mare grande, mare blu, sembri piangere anche tu, ma quando sento questa melodia, le cose del passato le cancello, il mio mondo adesso è questa melodia. I sogni. Ed eccoci di nuovo in studio con l'ultima, proprio l'ultima tranche della nostra trasmissione con Storie de che altri. Tentiamo di portare avanti questa cosa a due voci, diciamo, verifichiamo un po'. Questa volta la poesia di Pablo Neruda. I fue a esa edad. Llegó la poesía a buscarme. No sé de dónde salió. De inverno o río. No sé cómo ni cuándo. No eran voces. No eran palabras ni silencio. Pero desde una calle me llamaba. Desde las ramas de la noche, de pronto entre los otros, entre fuegos violentos, o regresando solo, allí estaba sin rostro y me tocaba. Yo no sabía qué decir, mi boca no sabía nombrar, mis ojos eran ciegos, y algo golpeaba en mi alma, fiebre o alas perdidas, y me fui haciendo solo, descifrando aquella quemadura, y escribí la primera línea vaga, vaga, sin cuerpo, pura tontería, pura sabiduría del que no sabe nada. Y vi de pronto el cielo desgranado y abierto, planetas, plantaciones palpitantes, la sombra perforada, acribillada por flechas, fuego y flores, la noche arrolladora, el universo. Y yo, mínimo ser, ebrio del gran vacío constelado, a semejanza, a imagen del misterio, me sentí parte pura del abismo. Rodé con las estrellas, mi corazón se desató en el viento. La poesía. Accadde in quell'età. La poesía viene a cercarmi. Non so da dove sia uscita, da inverno o fiume. Non so come né quando. No, non erano voci, non erano parole né silenzio. Ma da una strada mi chiamava, dai rami della notte, bruscamente fra gli alberi, fra violente fiamme, o ritornando solo, era lì, senza volto, e mi toccava. Non sapevo che dire. La mia bocca non sapeva nominare, i miei occhi erano ciechi e qualcosa batteva nel mio cuore, febbre o ali perdute, e mi feci da solo, decifrando, quella bruciatura. E scrissi la prima riga incerta, vaga, senza corpo, pura sciocchezza, pura saggezza di chi non sa nulla. E vidi all'improvviso il cielo, sgranato e aperto, pianeti, piantagioni palpitanti, ombra ferita, crivellata da frecce, fuoco e fiori, la notte travolgente, l'universo. E Dio, minimo essere, ebro del grande vuoto costellato, somiglianza a immagine del mistero, mi sentii parte pura dell'abisso, ruotai con le stelle e il mio cuore si sparpagliò nel vento. Ecco, non ci resta che ringraziare l'ascoltatrice e i nostri ascoltatori e invitarli alla prossima occasione. Allora, grazie a tutti e buona serata, e come sempre io vi dico il mio ciao ciao. Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. Questo programma lo puoi riascoltare su bluradioveneto.it.